Slalom. Flashback. Canzone dei Dick Dick, Music senza luce, riproposta in versione italiana perché era un grande successo inglese, che noi questa mattina, il 21 ottobre del 2011, abbiamo rispolverato, grazie soprattutto a chi ci richiede anche qualche canzone di qualche tempo fa. Aspetti che chiudiamo, eccolo qua. Allora, noi continuiamo a parlare di musica, non prima di avervi ricordato i nostri numeri telefonici, che sono 0921 92 32 92, oppure potete benissimo fare il 335 56 37 251, www.crmhappyradio.it. Questi sono i mezzi che ci possono permettere, che vi possono permettere di interagire con noi. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto. Qualcosa di importante da fare, lo potete fare benissimo a Cefalù in corso via Umberto I alle 19.30 presso il Golden Bar. C'è un happy hour veramente fantastico, veramente veniteci a trovare, noi saremo anche lì per trascorrere insieme a voi delle belle ore in compagnia dei ragazzi del Golden Bar, in compagnia di noi di CRM e soprattutto di voi. Buona musica a tutti, continuiamo ancora con la musica italiana, lo facciamo con i Negrita. Che cos'ero intorno a vent'anni, un manicomio sul letto di danni, sogni sciatti, notti di festa, tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui, e quella cosa è ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato, esplode colpi e non prende fiato mai. Sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Del mondo, mentre io mi nascondo,

dal titolo La notte dei desideri. Allora, il 21 ottobre di tanti anni fa, nel 98, al Quirinale, giuramento per il nuovo governo formato da Massimo D'Alema. Nel 97 il Vaticano viene avviato al processo di beatificazione per Padre Pio da Petalcina. Pubblicità e poi ripartiamo. Slalom. Flashback. Tornati indietro con questa canzone dei Supertramp che si intitola The Logical Song, estratto praticamente da Breakfast in America. Continuiamo con la musica, salutiamo i ragazzi che ci seguono dal Golden Bar di via Umberto I qui a Cefalù. Questa è la musica dei Coldplay che già sentite in sottofondo. La canzone è stata richiesta al nostro 335, dov'è il numero? Eccolo qua, 56 37 251. Salutiamo Francesca che ci ha chiamato da Termini Imerese. Il 21 ottobre del 1879, dopo 14 mesi di esperimenti, riesce a far funzionare il prototipo della lampadina elettrica, il filamento incandescente che praticamente resta acceso per 13 ore e mezzo. Pensate quanto tempo ha che funziona la luce di casa, una scoperta veramente importante. Nel 1945 invece in Francia per la prima volta le donne sono ammesse al voto popolare. Continuiamo con la musica, ma come già detto questi sono i Coldplay, Paradise. When she was just a girl, she expected the world. So she ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes, adesso diamo dei buoni consigli, poi le notizie e poi rientreremo in studio con Giulio Gianlombardo e i consigli di questo fine settimana. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria Dalla Vincenzo, Corso Ruggero 34, Cefalù. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. We'll be right back. come già anticipatovi per prima della pubblicità e del per quanto riguarda il aspetti che c'è qualcosa che non funziona. Ok, adesso abbiamo Ladies and Gentlemen, Mr. Giulio Giallombardo. Ciao Giulio, come stai? Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sto benissimo, grazie. Ok, allora i consigli di oggi? Sì, allora per il prossimo fine settimana, ovviamente essendo in autunno, non possiamo che parlare di funghi. Quindi questa settimana avrete due occasioni per gustarli. La prima tappa d'obbligo è ovviamente a Castelbuono, che è la capitale dei funghi. Dal 21 al 22 ottobre si svolgerà la quinta edizione del Funghi Fest. Quindi passerete da una degustazione all'altra a base di funghi appena raccolti, tra spettacoli, mostre, convegni, visite guidate, escursioni, e chi più ne ha più ne metta. Bene, bella informazione. Esatto. A pochi chilometri da Castelbuono, esattamente a Caronia, nel Messinese, alle pendici dei Nebrodi, si svolgerà invece la dodicesima edizione della sagra Porcelli e Porcini. Questo, insomma, il nome è un po' curioso di questa sagra. Porcelli ovviamente per il suino nero dei Nebrodi e Porcini ovviamente per i funghi freschi che vengono raccolti nella zona. Quindi il menù comprende risotto ai funghi porcini, che è preparato da uno chef del luogo, poi il suino nero dei Nebrodi, quindi le salsicce e le costolette di suino nero, e per finire formaggi ricotti e poi dolci tipici locali con il vino dolce, insomma. Bene, penso che i nostri radioascoltatori saranno contenti di questi consigli che tu settimanalmente ci dai. Sì. Vi ricordiamo per l'iscrizione alla nostra rivista, che si chiama Sicilia Weekend. Basta collegarsi sul nostro sito, che è www.siciliaweekend.info, inserire la vostra email e ogni settimana, ogni mercoledì notte esattamente, riceverete la newsletter da cui potrete scaricare la rivista. Perfetto, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Hai qualche altra cosa da dire, qualche altro suggerimento? Stai preparando qualcosa? Dici della tua... Vorrei dare anche un altro appuntamento, visto abbiamo un po' di tempo, relativo a una escursione che si terrà nella riserva naturale orientata della Ficuzza, vicino Palermo, proprio a sud di Palermo. Partendo da Palermo, gli operatori ambientali dell'Eco Campus Casaboli organizzeranno per domenica 23 ottobre una bella escursione nel polmone verde a sud di Palermo, che comprende appunto un'escursione, una visita, una passeggiata a quelli che erano i luoghi storici di Ferdinando III di Borbone, che lo ricordiamo all'interno della riserva aveva fatto costruire il suo palazzo reale nonché casina di caccia, in cui si riposava tra una battuta e l'altra. Bene, ok. Allora, noi ci sentiamo venerdì prossimo, Giulio. Sì. Ti perfetto. Auguro una buona settimana. Preparaci anche per il prossimo fine settimana qualcosa di importante, come stai facendo già, come hai fatto oggi e come hai fatto già nei giorni trascorsi quando ci siamo sentiti. D'accordo, faremo del nostro meglio. Okay. Buona vita e buon lavoro per tutto. Grazie, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. Ok, ciao, ciao Giulio, ciao. Ciao. Ciao. Allora, noi ritorniamo in studio, prima vi diamo dei consigli commerciali e poi riprenderemo con una vecchia canzone di musica italiana che noi abbiamo preparato per voi questa mattina. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano. Passerò sul ramo, nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul meno. Chitarra mia, suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato verde quando è primavera, il sole caldo e poi scende la sera. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna a quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, dirmi addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera. Slalom, flashback. Why does my heart my soul feel so bad? Why does my heart does my heart Why does my soul feel so bad? Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Quanta bella musica vi facciamo ascoltare, ma lo facciamo anche perché voi ce la richiedete. Facciamo un salti da qua e da là. I know you think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't psicoterapisti hanno scandagliato il più complesso dei sentimenti, scoprendo che nella maggior parte dei casi ha vita breve, quindi l'amore dura solo un anno. Io non è che ne sia molto convinto, però spiegano i psicoterapisti in questo articolo che è comparso all'interno di un sito, spiegano che comunque poi è basato sul rapporto di coppia, quindi stimolare questo sentimento che ha al suo apice di successo soltanto nel primo anno di incontro con l'altro partner. Continuiamo con la musica, lo facciamo con una richiesta. Will you recognize me? Thank you. You say that you will wait. I try but always break, 'cause the day always lasts too long. Bene, questa canzone è in cima alle classifiche di tutto il mondo e Mehdi Sandé con questo pezzo è ben richiesto al nostro numero telefonico che è lo 0921 92 32 92, oppure potete, vi ricordo a tal proposito anche l'altro numero che è in cellulare dove potete mandare i vostri sms che è il 335 56 37. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più con Francesco Puglisi. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, Mr. Michele Sarrica. E a questa presentazione come potrei rispondere? Allo, benvenuti a tutti alla radio Happy Day. No, Happy Day, che dice Happy Day? Happy Radio, è felice di incontrarvi. Come stai innanzitutto? Beh, diciamo che la mia laringite ancora continua un po' a infastidirmi, ma comunque tutto sommato tutto bene. Oggi sono un pochettino incavolato. Sono incavolato con la gente che non ha sensibilità né cuore. Poco fa tu quando mi hai chiamato ti ho detto che stavo venendo dal dare a mangiare a un cane, che purtroppo, sai, la gente con facilità li acquista, se li fa regalare e con altrettanta facilità poi li abbandona. Questo cane in estate è stato abbandonato, qua vicino a casa mia che c'è un terreno libero, e poverino, se lo vedi, è ridotto per le ossa. È un meticcio di Labrador e quindi, sai, quando mi vede arrivare, da premettere che non era molto mansueto, io lo vedevo che io, siccome sono abituato a stare anche con gli animali, nel senso di cani, non nel senso lato, e quindi questo cane, dopo che io gli portavo il mangiare ogni giorno, chiaramente, poi sai, una volta si è avvicinato e mi è venuto a leccare le mani, cioè come atto di ringraziamento. E adesso chiaramente lo accarezzo, quasi ci parliamo, e quando viene ad arrivare uno scodinzolare incredibile, e questa è una cosa molto bella, ecco la poesia. Questo per me, l'incontro con questo animale abbandonato, è poesia. Adesso, perdonami questa divagazione mattutina. No, è una cosa... No, perché è un'amarezza così che ti porti dentro e quindi hai bisogno di sfogarla. Ma io, sai, io abito in campagna, ho un bel cane. Ho lo spazio, ho tenuto altri cani e un po' mi dà fastidio vedere che ci sono tanti animali abbandonati per strada. Ma la cosa strana è questa, come hai detto tu poc'anzi, che la gente li tiene in casa per un periodo e sì, poi niente. Sì, poi sì, basta che il bambino gli chieda questo regalino come se fosse un peluche, allora chiaramente la mamma, il papà, i genitori, no, che siamo molto molto facili a accontentare, mi ci metto in prima linea io, i nostri figli, poi comunque non abbiamo la cognizione di come si alleva un animale, di come si dovrebbe tenere, poi ci stanchiamo perché poi dobbiamo partire, non lo possiamo lasciare, non lo possiamo fare, non possiamo... Sì, e ci quindi... sono tanti fattori esterni che negativamente contribuiscono al tenere un animale, come se un animale fosse un giocattolo. Esatto, esatto, esatto, esatto. Comunque, come stai tu? Come è passata la settimana? Dunque, la settimana è passata benissimo. Io ho continuato a fare il mio lavoro, sono stato in giro, ho visto anche delle cose carine, delle cose simpatiche. Come ti dicevo ieri, che noi abbiamo avuto modo anche di sentirci, sì. Sto preparando insieme anche qui alla redazione di CRM qualche altra cosina che può essere interessante, e penso che la collaborazione con te stia avendo un buon seguito, visto anche il parere favorevole che c'è stato anche l'altro giorno quando tu hai recitato quella poesia. Io mi ringrazio, ma sono, te l'ho detto, sono felice di poterlo fare, perché è chiaramente l'obiettivo, come dicevo l'altra volta, di qualsiasi poeta, di qualsiasi persona che scrive, che ama scrivere, è quello appunto di comunicare. Quando ti si offre un'opportunità del genere, è chiaro che la prendi al volo. Allora, ci fai sentire qualcosa? Ci dici qualcosa? Stai preparando? Mi avevi accennato l'altro giorno a qualcosa di interessante che sarà giorno 30? Giorno 30, okay. Giorno 29, anzi, perdon. Giorno 29 di questo mese, di ottobre, abbiamo un bellissimo incontro, soprattutto interessante, per quanto concerne, diciamo, la presentazione di un libro di un carissimo amico mio che si chiama Guglielmo Peralta di Palermo, che il suo ultimo romanzo, edito da Genesi di Torino, dalla Genesi di Torino, proprio nel mese di luglio, verrà presentato appunto in questa occasione. E io sono stato incaricato soltanto di leggere, soltanto, che è già un gravoso impegno, di leggere alcuni brani, alcuni stralci. Quindi se venite numerosi ci farete una grande gentilezza, anche perché trattasi di un libro molto particolare, cioè crediamo, io credo fermamente che sia un libro originalissimo, un nuovo modo di fare romanzo, di scrivere il romanzo. Qua si tratta di, ma non posso spiegartelo per te, ma si tratta di una cosa straordinaria, cioè avviene qualcosa che soltanto nella fantasia di un ottimo scrittore poteva avverarsi, questo miracolo. Cioè tu immagina un po', far incontrare un po' tutti o molti personaggi dei vari romanzi da Dostoevskij, Cesare, Pirandello, Ovidio, Kafka, Dante Alighieri, Collodi, cioè far incontrare i loro personaggi tutti in un posto e poi questi personaggi che si cercano di identificarsi e di andare incontro ai loro autori. C'è tutta una situazione particolare che chiaramente non so che a spiegarvi tutta, anche perché per me sarebbe anche difficile, perché c'è filosofia, c'è pedagogia, c'è di tutto. Ho capito. Magari con l'occasione avremo l'opportunità anche di avere la presentazione ufficiale di questo libro anche qui in radio, se ti fa piacere. Ma guarda, io penso che il mio amico sarà felicissimo, perché come ti dicevo, noi siamo qua non soltanto circondati dal mare, ma siamo circondati diciamo, lasciamo stare la nomea, ma da muri alti, che sono quelle le prevaricazioni, l'incredulità, eccetera eccetera. Lasciamo stare, non voglio essere pessimista stamattina. No, assolutamente. Dobbiamo sempre guardare positivamente al futuro, dobbiamo sempre guardare in maniera propositiva. E quindi quando gli dirò a questo mio amico, sicuramente che ci ascolterà, gli farò ascoltare il podcast poi. E chiaramente gli farà piacere sapere che attraverso per radio può, diciamo, annunciare a tutti gli ascoltatori questa nascita di questo libro, questo romanzo, perché purtroppo noi non abbiamo il Corriere della Sera alle spalle nell'Espresso e non possiamo permetterci il lusso di pagarne la pubblicità. Vabbè, no, questo serve soprattutto perché, allora, le cose buone vanno dette, vanno comunicate, vanno consigliate, e noi con il nostro piccolo programma, con la nostra umiltà che ci accompagna da sempre, vogliamo dare soprattutto ai nostri radioascoltatori un messaggio preciso di seguire, di ascoltarci, ma soprattutto di fare attenzione a quello che noi vi comunichiamo, anche un libro, una poesia, un percorso itinerario che può essere anche enogastronomico, come abbiamo fatto con Giulio Gianlombardo prima e così via, il percorso che abbiamo parlato l'altro giorno con Antonio Presti, la Fiumara d'Arte, insomma, dare dei buoni consigli soprattutto per tutti coloro che amano questa bella terra. Allora, Michele, ci fai sentire questa poesia questa mattina? Guarda, tempo fa, questa poesia, sì, l'ho preparata perché sarebbe ipocrita dire di no. È una poesia che tanto tempo fa, quando forse nel nostro, diciamo, privato, l'amore bussava con più sollecitudine, possiamo dire, allora mi veniva chiesto spesso dalla persona che mi stava accanto: mi ami, quanto mi ami, eccetera eccetera, come faceva la pubblicità una volta, mi ami perché mi ami, quanto mi ami, e se mi amerai per sempre. Anzi, ho detto, ad esempio, c'è una notizia di psicoterapisti che hanno detto che comunque l'amore dura un anno, è come se fosse ad orologeria, specificando anche che comunque questo non significa che dopo tale scadenza naturale debba necessariamente finire tutto. Tuttavia, se il rapporto non si evolve con l'impegno di entrambi, si corre realmente il rischio di incorrere in una situazione conflittuale che può causare la classica rottura, il divorzio, la separazione e così via. È un problema, il problema è molto vasto, chiaramente, non ci possiamo dire avviene perché le nostre strade divergono, convergono, eccetera, eccetera, no, assolutamente no, perché ovviamente la vita ci porta a diversificare certi atteggiamenti, le nostre emotività, le nostre emozioni, il nostro modo di essere, e allora magari ci troviamo di fronte poi una persona sconosciuta, se noi riusciamo a essergli accanto passo dopo passo e a crescere insieme. Quindi poi magari ci troviamo, io dopo 25 anni con chi vivo, oppure quindi se noi partiamo insieme ma arriviamo dove? Quindi dobbiamo fare di tutto, e questa è l'intelligenza, la razionalità che poi ci porta a vivere bene il rapporto d'amore, perché parte con la passionalità, l'amore si traduce, sentimento, bene, e poi chiaramente intelligenza, razionalità, i figli, la casa, la società che ci obbliga, diciamo tra virgolette, anche a creare questa famiglia, perché come nucleo sociale, se non ci fosse la famiglia non potrebbe esistere la società. Certo. Quindi è un fatto razionale, un fatto culturale e civile. Quindi noi razionalmente, anche quando quelle passioni vengono un po' meno, scemano, anche con l'età, perché no? Non dipende soltanto dall'amore, dal fuoco sacro che ci prende quando siamo giovani, ma è chiaro che poi c'è subentro un altro tipo di affetto. Io non potrei fare a meno della persona che mi sta vicino, ma perché mi capisce, perché ci guardiamo negli occhi, perché mi cucina, perché sa cucinare, perché ha la pazienza di ascoltarmi, io ho la pazienza di comprenderla, non sempre, comunque. Vabbè. Tanti allora, fattori. Ci fai sentire questa poesia? Questa poesia, se mi permetti, desidero dedicarla a tutti gli innamorati che ci stanno ascoltando e anche quelli che non ci stanno ascoltando. Va che bene. Ce ne frega tanto, noi possiamo allargare questo panorama, farlo diventare più vasto. Allora, poi noi ci sentiamo lunedì prossimo, abbiamo il modo di sentirci, il piacere di sentirci. Ma per me è il piacere, lo sai. Va bene, allora ci sentiamo. Io poi manderò una canzone e poi ci sentiamo comunque lunedì prossimo. Ah, tu manderai, ho capito. Allora io leggerò la poesia e poi manderò la canzone. Ok. Ci salutiamo adesso o domani? Sì, ci salutiamo adesso e ci rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo. Ho capito. Allora io ti dedico questa poesia, cioè a te, tutti i radioascoltatori. Si intitola... A tutti gli innamorati, dai. Ma non te lo posso dire ti amo, perché si intitola ti amo, capisci? Sarebbe un po'... No. Allora, uno può dire creerebbe dei sospetti. Beh, no, questo no, assolutamente. Però il dire ti amo è comunque una cosa bella. Perché, molto bella. Credo che l'amore sia uno dei sentimenti più importanti che esistano al mondo. Esatto, difatti ho preparato questa poesia perché so che il sentimento, amore, è qualcosa di... che ci colpisce un po' tutti, no? Non parliamo soltanto di un fatto X che va a determinare, a smuovere soltanto alcune note dei nostri sentimenti, ma qua parliamo dell'amore in generale, quindi ti amo. Va bene, ok, sentiamo. Io ti amo perché? No, non esiste un perché, soltanto un miserabile perché. Ti amo ed è semplicemente un'emozione, un interludio di essenza e di pensieri, circoscritto in un raggio di eterni paragoni col creato. Ti amo ed è meraviglioso inabissarsi nella rugiada sospesa sulle labbra, mentre la lava lentamente scende dal dirupo dei miei sogni. Ti amo e sento farsi edera il tuo nome. Buon ascolto a tutti. Buona giornata. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people are strange and you can never second guess. Oh, Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Slalom. Flashback. Slalom. Flashback. Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città. Sporca, avvelenata, incivile, incendiata, sempre affollata, devota, ammutinata. Ma è la mia città. È la nottata. No, passa mai. Bella, appariscente, invidiata, invasiva. scadente, volgare, indecente, violenta, incandescente, ma è la mia città. Voce incosciente, insidiosa, insolente, amara, ammaliante, miracolata, irriverente, ma è la mia città. Domani chi lo sa, vedrai che cambierà, magari sarà vero. Non cambierà mai niente, se ci credo solo io. Solo abbandonata, invisibile, spiata, fiera, disprezzata, feroce, incontrollata, ma è la mia città. Colta, raffinata, aggredita, infamata, muta, scanzonata, superstiziosa, spregiudicata, ma è la mia città. E domani chi lo sa, vedrai che cambierà. Credo solo io. Il 21 ottobre del 1918 Margaret Owen, una dattilografa di New York, fissa il record mondiale di velocità alla macchina da scrivere digitando, pensate, 170 parole in un minuto. Abbiamo sentito Edoardo Bennato, adesso consiglio commerciale. Poi... Su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Se il mondo io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che

Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Quello che comunemente noi chiamiamo amore, forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa di cui tutti hanno sempre scritto, senza veramente mai sapere come fosse fatto, anche perché guardo fuori, fuori non ce n'è. Però lui non c'è. Universi separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitudine. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio Gentiero, sono gli altri, gli stupidi, diciamo così, gli stupidi. Infatti in un sito dove si parla di lui ha dichiarato che i trentenni sono dei bamboccioni, e non so perché, anch'io ho 30 anni, ha dichiarato, e mi piace la vita, mi piace il lavoro, mi piace avere una famiglia, e felicemente infatti sposato con Miriam Catania, di cui sta provando ad avere, ad allargare la famiglia, non abbiamo ancora figli, ha dichiarato, ma speriamo di averne almeno tre, di cui due gemelli, essendo che nelle loro famiglie esistono dei casi di parto gemellare. Continuiamo con la musica, questa è una richiesta giunta al nostro numero telefonico. Salutiamo la ragazza che ci ha chiamato da Cefalù, lei è Daniela, che ci ha richiesto questo pezzo di Laura Pausini, Benvenuto. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi, e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive

sole cade pioggia. E va sempre così, che credi di aver tempo, invece già, invece a primavera. La canzone che abbiamo sentito richiesta al nostro numero telefonico dei Muda, interpretata in maniera eccelsa da questo gruppo di casa nostra. Carla Bruni finalmente ha partorito questa splendida, dicono i genitori comunque, ma credo che ogni scarafone è bello a mamma sua. Prima si era detto Dalia, adesso Giulia. A tal proposito vorrei mandare tanti bacioni, tanti auguri e tante belle cose, una buona vita alla nostra piccola Giulia che è arrivata dall'unione di Davide ed Eva. Saluto anche Liria che viene dalla Lettonia, quindi anche se per adesso non è che abbia trovato chissà che bel tempo. Pubblicità, poi rientrerà. Slalom, flashback. Your lovely face. Fire, terra, vento e fuoco, con questa bella canzone degli anni Ottanta intitolata per l'appunto Reason. Allora, il predicatore Alo Camping, che non è nuovo a queste previsioni, aveva previsto che sarebbe finito il mondo, e quindi il 21 maggio scorso aveva previsto questo. Si era ricorretto e aveva detto che comunque non finiva il 21 maggio, ma bensì il 21 ottobre. Quindi se avete degli impegni per questo fine settimana non li prendete, visto che questo pastore ha previsto questa fine del mondo. Quindi nel paradiso giungeranno i giusti e nell'inferno andranno a finire i... Discuterne con te di quelle storie tenute nascoste, perché troppo infime per te. So che io sbaglierei a non dirtelo mai, e so che ti farà male, ma rinascerai come rinascono i fiori, come rinascono i fiori. Come far nascere l'amore, la canzone che abbiamo sentito quest'oggi. Allora, come già detto in anticipo, abbiamo in linea una persona speciale, una persona che io conosco, con il quale condivido un percorso, ed è giusto che oggi sia ospite con noi. Ed è con noi oggi padre Angiolino di Lizia. Buongiorno padre. Buongiorno. Allora, io ti ho voluto oggi ospite perché mi piacerebbe un pochettino parlare della liturgia di domenica. Che dici? Ecco, la liturgia di domenica, soprattutto il Vangelo, è molto attuale perché parla di amare, e sappiamo che l'amore fa parte della vita di ogni persona, è il centro, il cuore di ogni nostra relazione con gli altri. Chi ama è contento, chi non ama soffre. E Gesù nel Vangelo dice che amare è l'unico comandamento. Ecco, un dottore della legge gli ha chiesto: maestro, qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù ha risposto: tu amerai. E per tre volte ripete questa parola amerai, perché è l'unica misura dell'amore è amare senza misura. Ad esempio, ama Dio con tutto il cuore, non con una parte, con tutto il cuore. Perché se noi amiamo le persone, innanzitutto amiamo Dio, c'è posto per tutto. Dio non è geloso quando amiamo gli altri, perché negli altri c'è la sua presenza. Poi Gesù dice: ama con tutta la mente. Ecco, l'amore rende intelligenti, fa capire prima, andare più a fondo, più lontano, più in profondità. E poi la terza volta che Gesù ripete di amare Dio con tutte le forze, l'amore rende forti, capaci di affrontare qualsiasi ostacolo e fatica in ogni circostanza della vita. Allora, ecco, amare è importante, ma da dove incominciare? Beh, io credo dalla famiglia innanzitutto. Ma più che dalla famiglia, dal lasciarsi amare da Dio, che entra nel nostro cuore, dilata, allarga le pareti di questo nostro piccolo vaso che sono io. Cioè, noi siamo degli amati che diventano amanti. Siamo amati da Dio e possiamo amare gli altri. Quindi dobbiamo partire dall'esperienza che Dio ci ama. D'accordo? Sì. Ecco, ma dove sta la novità di Gesù in questo comandamento? Sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola. Amare Dio e amare il prossimo in pratica è amare. E il secondo è simile al primo, perché amare l'uomo è simile ad amare Dio. Il prossimo è simile a Dio, quindi non c'è differenza se amiamo Dio o amiamo il prossimo. Questa è la rivoluzione che Gesù ha fatto. Il prossimo ha volto e voce e cuore simili a Dio. Questo è stupendo, è meraviglioso. Sì, è una frase piuttosto profonda. E poi Gesù aggiunge un'altra cosa, di amare anche noi stessi. È quasi un terzo comandamento, sì, che è sempre dimenticato, perché se sei come un prodigio, porti l'impronta della mano di Dio. Se ami te stesso, se non ami te stesso, non sarai capace di amare il prossimo. Beh, questo sì, cioè, sicuramente, perché dico prima, dico vero che prima dobbiamo amare anche gli altri, ma soprattutto dobbiamo amare noi stessi. Non è facile, perché se per te, per me, per chiunque desideriamo la pace, il perdono, questo ti offre la possibilità di donarlo anche agli altri. Se io, tu o chiunque desidera la giustizia, il rispetto, tu per primo lo darai agli altri. Quindi amare noi stessi è la base per poter amare gli altri. Ma così anche per concludere, ma perché dobbiamo amare? È più facile essere egoisti, pensare a noi stessi, a disinteressarci degli altri, quelli vicini e quelli lontani. Ma perché donare amore è la cosa più bella di questo mondo. E certo, perché dare e ricevere amore è ciò su cui posa la felicità di ogni persona, la beatitudine della vita. Ecco perché Dio, che è amore, e questo amore è energia fondamentale del cosmo, deve essere anche il motore della nostra vita. Chi ama è contento, chi non ama è triste e deluso. E poi si porta alla violenza, a calpestare gli altri. Ma tutto il resto che conosciamo purtroppo. E quindi il Vangelo di domenica è un Vangelo che ci porta ad essere molto concreti, anche se può sembrare una proposta, quella di Gesù, quella del Vangelo, che oggi non trova riscontro nella nostra società. Quante violenza incontriamo attorno a noi? Perché c'è poco amore verso Dio, poco amore verso il prossimo e poco amore verso se stessi. Forse dovremmo far aumentare questo fuoco dell'amore in noi per poter rinnovare il mondo. Ok, Padre Angiolino, io rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, sarai con noi anche venerdì prossimo, me lo puoi confermare? Certo. Perfetto, questi minuti dedicati a noi ti ringraziamo, perché è un messaggio importante, è un messaggio soprattutto mirato. Nelle radio si fa tanta radio, si fa tanta musica, si parla del più e del meno, ma non si parla anche del messaggio di Dio. Io credo che sia questo una cosa importante che un po' tutti dovremmo cominciare a fare. Buona vita, Padre Angiolino. Grazie anche a te, anche a voi. Ciao, grazie. Slalom, flashback. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Cerco un centro di gravità permanente, era la canzone che cantava tanti anni fa il buon e bravo Franco Battiato. Lo abbiamo riascoltato grazie a tutte le vostre richieste, grazie soprattutto al fatto che noi siamo la radio che vi permette di ascoltare sia la musica di oggi che la musica di domani, no, di domani no, la musica di ieri. Continuiamo ancora con la musica, lo hanno fatto questo pezzo, lo hanno richiesto ai nostri numeri telefonici, lei è Gianna Nannini. La canzone si intitola Mai per amore. Vieni di puro amore a ridarmi la vita, altissimo amore.

Vi ricordo gli appuntamenti a seguire. Dopo Slalom ci sarà Day by Day, On the Road, Toc Toc, Freestyle e poi i Rock Brothers, che sono i nostri cari e simpaticissimi Filippo e Simone Brancato, che vi terranno compagnia dalle 21 in poi con il loro Rock Revolution. Salutiamo un po' tutti i nostri cari colleghi che durante il corso della settimana si susseguono per farvi compagnia, per fare in modo che la vostra giornata sia una speciale giornata. Da America Altalano alle due simpatiche ragazze di Toc Toc, che sono Gerardina, l'altro lo sai che non me la ricordo, sto facendo veramente una cosa bruttissima, ma continuo ancora con la musica e lo facciamo con Wolfgang. Yeah, I'm that boogaloo shrimp, no simple life. I'm on living film, arcade, race, race. I'm busting out of my cage, cage. I won't go out and get more trash. Rock and roll like Johnny Cash. Might crash, whip, whip, crash. Pedal to the metal while I'm pumping that gas. Party like it's the last day. Burn the town, leave it all in blaze. Tonight I'm going crazy. And I don't care about what you say. I'ma go out and do my way. Hey, I'm party pretty hard on the boulevard. Your playing. You a super mega DJ, and now I want a moment of silence for my friend. Yeah, now let's rock it hard. Wolfgang, this beat bang, making my wanna get ignorant, let my chain hang, and pull a nimble's card. Now I'm gonna live it up and get it until I'm giving up. I'm partying hard on the boulevard. Sono Gerardina e praticamente e chi? Eccolo, aspetta un attimo che sennò Gerardina e Rosy, sennò mi picchiano costantemente. Continuiamo ancora a sentire musica, ma prima dobbiamo dare i giusti consigli commerciali, poi i saluti e tante belle cose. Pubblicità. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Allora, sono giunti, è giunto il momento dei saluti. Vi ricordo due cose importanti. Questa sera alle 19.30 l'appuntamento con l'Happy Hour al Golden Bar di via Umberto I qui a Cefalù, bar che si trova accanto al ristorante pizzeria Tibitti. Poi c'è che cosa? L'appuntamento serale con Rock Revolution, con i nostri cari fratelli Brancato, quindi Simone e Filippo partiranno alle 21. Io volevo fare una caterva di saluti, volevo salutare Samuele, Maria Cristina, Miriam, Bruna, Martina, Francesca, Marco, Gioacchino, Gabriele, Noemi, Ornella, Cristian. L'appuntamento con Slalom è per lunedì, stessa radio, stessa frequenza. Da Francesco Puglisi a tutti, buona vita e buon fine settimana.